Ecco a voi, Pino Gigliotti! Turista, turista! Cari amici, bentornati dal vostro amico Pino Gigliotti! E bentornata, permettete, signor, vicino a mia, che non sta ancuna, è Maria Francesca! Maria Francesca, Maria, turista, ti faccio... Bene, finisce le vacanze e fissi a comprare. Eh sì, ma ora lo fissiamo, tu pensa pure alla carriera tua. Sì, allora, ora mi ha presentato. E che lo sei fatto indagare, che ci colpo io? Comunque, guarda che c'è, che non minchione per Francesco, vai per Francesco! Buonasera zio Pi, buonasera zio Pi, ti canta una canzone, avevo cantato una canzone, posso cantare una canzone? Canta, canta, cazzo me ne frega. Questo piccolo grande amore, sei un piccolo grande amore, ne voglio ciò e di più, ho visto come canta bene? Sì, sì, minchia, proprio a Castro Caro poi. Castro Caro, la la la la la la la la la la la la. Allora, cari amici, siamo a Lungomare di Paola e questo bel nostro mare, noi due sue cose, chiama Paola e chiama l'autostazione a Cosenza. Comunque, vediamo di fermare qualcuno. Vediamo su guaglione tutto bene, attrezzato. Bello guaglione, com'è? Come sta la fase? E come va? Stai pulizzando sta porcheria di marciapiede. E insomma, vedete, ti sta scopando in quella maniera, uè, io, ormai... E tu ridi, ma io indigno una lira, pure la guaglione mi ha lasciato. E ora mi porto sfortuna tutti i pigli. Comunque vediamo quest'altro giovane barrista. Maria Francia, ma che ci fanno? Ma lo stai facendo la televisione. E che... Caramba, Maria Francesca ha ritrovato il suo guaglione. Amo fregata Raffaella Carrà, yeah. Ma tu sai che ne signore? Signor Marzo Alcoga, tu sei pigli. Guarda tu! Quando... Ma te faccio passare io con le bocca a Maria Francesca! Ma bastardi, ti hai acchiappato finalmente! Dopo! Dai, dai! Prima della trasmissione, va! E zio B!